Buonasera a tutti, benvenuti alla terza e conclusiva conferenza del ciclo D'Asse all'Europa, itinerari della memoria per uno sguardo al futuro, l'ultima che si svolge qua nel refettorio del seminario vescovile, perché poi gli eventi continueranno al Museo Diocesano San Giovanni. Approfitto con l'occasione per dare una comunicazione, l'evento che riguarda l'inaugurazione della mostra Per mille strade, previsto per il venerdì 26 ottobre, per un problema della soprintendenza archivistica slitta al 9 di novembre. Cioè viene annullata questa data di venerdì 26 e i due eventi saranno uniti nella giornata di venerdì 9, quando ci sarà l'inaugurazione della mostra e la conferenza appunto prevista il 9 di novembre del dottor Alberto Crosetto della Soprintendenza Archeologica. Allora, torniamo alle nostre invece alle conferenze legate al tema Tanti modi di viaggiare. Come ho detto appunto nelle puntate precedenti, la biblioteca quest'anno ha deciso di puntare su dei giovani studiosi e il terzo appunto che vi presentiamo dopo Simonetta Doglione e Gaspare Licandro, questa sera abbiamo qui con noi il dottor Ferdinando Zamblera, che ha un curriculum, pur essendo molto giovane, ha un curriculum notevole, e per cui adesso non ho il tempo, perché potrei sottrarre appunto tempo a lui e alla sua interessante dissertazione, per farvi un po' conoscere l'ambito degli studi di cui si occupa. E ci tengo a dire che anche, cioè, ci siamo conosciuti in ambito proprio di studi, perché ha scoperto la biblioteca del nostro seminario e si è subito appassionato al nostro fondo. Infatti quello che lui oggi presenterà è proprio uno studio legato a un manoscritto che è in mostra in questo contesto. Allora, Ferdinando Zamblera si diploma al Liceo Classico di Messina, ottiene la laurea triennale in storia e poi la laurea specialistica in società, culture e istituzioni d'Europa, conseguita presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Messina, discutendo una tesi di storia medievale con un titolo che vi leggo perché è molto interessante: Lo scisma d'Occidente nelle lettere di Giovanni di Vanicello, ambasciatore privato del vescovo di Firenze Angelo Acciaiuoli. Naturalmente tutte le sue votazioni sono molto alte, tutte con lode, ma lo capirete anche dalla dissertazione di oggi. È vincitore del dottorato di ricerca in forme delle rappresentazioni storiche, geografiche, linguistiche, letterarie e sceniche, sempre della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina, e poi vince due borse molto importanti all'École Française, riservate appunto a giovani studiosi. La prima, discutendo il tema Italia meridionale mediterraneo, poteri locali e poteri centrali nei secoli dal secolo VI al secolo XV, e poi la seconda, dal titolo Fonti per la storia dell'economia europea, secoli XIII-XVII, dalla fonte alle reti mercantili. E che credo sia anche poi, da questa sia anche poi nato lo studio che oggi verrà presentato. Sono numerose anche le pubblicazioni su riviste scientifiche anche di ampio respiro, e sono contenta appunto di aver incontrato il dottor Zamblera, perché i suoi studi possono dare un apporto notevole anche ai numerosi testi medievali che si conservano nella nostra biblioteca. E infatti ha due studi in preparazione. Uno è proprio quello su Guido di Monterocken, il Manipulus Curatorum, che è l'oggetto, appunto, il manoscritto conservato presso la nostra biblioteca, di cui è in preparazione l'edizione critica del manoscritto, e poi un altro testo intitolato La spada e la penna, riflessioni sul pensiero politico in Guglielmo d'Occam. E quindi questo è un po' un breve riassunto del suo curriculum. Adesso lascio la parola a lui e vi ringrazio per la partecipazione e vi auguro buon ascolto. Buonasera a tutti. Grazie Deborah, sei stata ampia e generosa, devo dire, nel presentarmi. Allora, l'incontro di questa sera, che sarà più una chiacchierata che facciamo insieme, niente di pesante o paludato, ve lo prometto, ho deciso di spezzarla in due parti. La prima è quella proprio relativa al testo, al manoscritto che si trova qui appunto nella biblioteca di Asti, che tra un po' vedremo, e poi da qui possiamo partire per rintracciare il percorso che ha fatto questo manoscritto e com'è arrivato qui. Ci sono varie ipotesi. E l'altro, trattando appunto di reti mercantili e di mercanti, sarà la seconda parte dedicata alla nascita del capitalismo. È nato in Europa? Sicuramente, ma in quale parte dell'Europa e in che periodo? Nell'Europa settentrionale luterana o nell'Europa mediterranea cattolica e toscana? Andremo poi a vederlo. Intanto partiamo subito dal manoscritto. Cosa può raccontarci un manoscritto oltre al contenuto delle pagine per il quale è stato creato? La fortuna che abbiamo trovato insieme a Deborah, non mi piglio assolutamente la paternità dell'esame del manoscritto, ma anzi è condivisa con la dottoressa Ferro, è che ci regala degli indizi, delle notazioni che normalmente in un manoscritto antico non si trovano. Cioè, chi e dove è stato prodotto? Oggi, nei libri che noi compriamo abitualmente, c'è sempre nell'edizione, addirittura il tipo di edizione, che numero di edizione si tratta, dove è stato stampato e quando è stato stampato, quindi luogo e tempo, che danno una garanzia di rintracciabilità di questo testo. Ecco, nel mondo medievale questo è molto molto molto raro, e la preziosità di questo manoscritto del XIV secolo, della prima metà del XIV secolo, è appunto questa. Quindi andiamo un attimino a vedere di cosa si tratta. Nell'esaminare i problemi connessi agli scambi commerciali, gli storici, non soltanto tra i medievisti, trovano nelle fonti liste di prodotti assai diffusi e desiderati. Tra questi annoveriamo spezie, cereali, ricchi tessuti in seta, altri realizzati in lana, in fibra vegetale, di lino o di cotone. Dai documenti emerge ancora il viaggio di pietre e gemme preziose, metalli nobili in forma di verghe, monili, monete auree o d'argento. Vi sono tuttavia altre tipologie di merci, non sempre appuntate nei contratti o nei registri contabili. Anche, e forse io sottolineerei soprattutto, in virtù della loro rarità. Penso, in questa sede, ai codici manoscritti, beni di gran lusso, certamente tra i meno diffusi e proprio per questo interessanti anche sotto l'aspetto strettamente legato al commercio internazionale. Se escludiamo pochi cenni, la letteratura scientifica dedicata al manoscritto risulta ancora mutila di mappature esaurienti circa la sua dimensione commerciale, almeno per l'età medievale. In proposito, lo studioso Roberto Greci scrive, leggo testualmente, le possibilità che ha un testo scritto di circolare ampiamente e quindi significare qualcosa per la ricerca dipendono essenzialmente da luoghi e tecniche di produzione e dalle caratteristiche di commercializzazione del libro cui il testo è affidato. È un problema difficile, che chiarisce opportunamente Greci perché una mappa del commercio librario è fortemente compromessa da scarsità e particolarità delle fonti disponibili. Infatti, è vero come, data l'eccezione di pochi registri ancora esistenti di antiche e prestigiose biblioteche, gli atti notarili si rivelano utili nel momento in cui registrano libri di particolare pregio. In questo senso, i libri contabili hanno come limite l'essere poco dettagliati, semplici voci per agevolare il calcolo di bilancio, cioè gli ingressi e le uscite. Così le tariffe dogonali tacciono contenuto, prezzi e percorsi attraverso cui le opere librarie viaggiavano e arrivavano a destinazione. Eppure molto si può ottenere dalla possibilità, senza dubbio inconsueta, rarissima, di trovare le informazioni all'interno del libro stesso, come nel nostro caso. Questa inusuale coincidenza è andata realizzandosi nel corso di recentissime indagini d'archivio condotte appunto qui presso la biblioteca del seminario vescovile. La biblioteca, lo ricorderà anche, lo ha già ricordato anche in altri appuntamenti la dottoressa Ferro, possiede una collezione di codici manoscritti, credo, se sbaglio, 25 codici manoscritti pregiati, antichissimi, no? 45, datati tra il IX e il XIII secolo, se non sbaglio, il XIV secolo, ecco. Tutti, almeno mi risulta, assolutamente inediti. Ecco. Tra questi segnaliamo appunto il manoscritto che abbiamo battezzato insieme numero 27 Astensis, ovvero la copia del Manipulus Curatorum di Guido de Montrocher, fondamentale guida per i confessori, apparsa la prima volta nel 1333. È rimasta in adozione presso la Chiesa Cattolica almeno fino al XVI secolo, quindi un bel percorso fino al Cinquecento. Argomento di interesse pluridisciplinare, la riedizione più recente del Manipulus, questo è giusto segnalarlo, è stata licenziata alla fine del 2010 da studiosi anglosassoni attraverso una trascrizione del volume a stampa, però è datato 1508. Nel 2011 segue una traduzione inglese dal latino, ma stiamo parlando di esemplari lontani anche due secoli, se li confrontiamo con l'originale della prima metà del 300 scritto appunto dall'autore. La rarità del codex posseduto dalla biblioteca del seminario è data in primo luogo dall'anno di compilazione, siamo nel 1346, è datata. Decisamente più antica della copia cinquecentesca cui hanno attinto gli studiosi anglosassoni nel 2010, e forse anche più attendibile perché più antica, è certamente utile per ricerche orientate sul versante filologico e paleografico, ma soprattutto quello squisitamente dottrinale, relativo cioè ai precetti contenuti nell'opera originale. In seconda istanza, sempre l'eccezionalità di questo esemplare è data dalla presenza, lo dicevamo in apertura, di glosse personali, di annotazioni personali, lasciate appunto dal possessore del Manipulus, e abbiamo il nome di questo personaggio, il frate domenicano Michele da Orvieto, operante presso il convento dei Domenicani di Asti. Rarissime notazioni private, queste del frate Domenico, del frate Michele, scusate, che permettono uno studio del tutto singolare, in quanto presentano al ricercatore, ad esempio, il punto di vista sui peccati e sui peccatori da parte di un sacerdote nell'età medievale. È vissuto a cavallo dalla prima e seconda metà del XV secolo. Felicissima coincidenza questa, perché offre uno spaccato per quel filone di ricerca ancora poco battuto effettivamente nel campo delle indagini sui flussi commerciali, ovvero appunto la circolazione dei manoscritti a livello europeo. Vediamo il manoscritto. L'esplicit dell'opera dovrebbe essere... Eccolo qua. L'explicit dell'opera fornisce infatti informazioni necessarie per individuare con precisione tempo e luogo di realizzazione del manoscritto, e lo troviamo qui. Explicit manipulus curatorum Deo Gratia, que feci scribi Brugis, fatto scrivere a Bruges, anno domini 1346. È rarissimo trovare una notazione di queste nei testi manoscritti, me lo conferma anche la dottoressa Ferro. Oltretutto, su 42 già ci dà la cifra di quello che è la fortuna che abbiamo. E dopo l'explicit, addirittura, seguono appunto le note scritte proprio dal pugno del possessore, dal famoso frate Michele. Iste liber est meis, fratris Michaelis de Orvietis, conventus astensis, ordinis fratrum predicatorum de ast, et emi eum in Brugis, quindi l'ho avuto a Bruges, de quoniam fratrem minorem romano. Poi c'è una notazione che vi lascio in sospeso, sul prezzo, se no ci giochiamo subito la suspense. Anno domini, e qua siamo un pochino incerti perché è scritto male, onestamente. Potrebbe essere sia 1446, quindi 100 anni dopo, ma va benissimo perché comunque è sempre in vigore, abbiamo detto fino al 500 questo manipulus, quindi viene comunque adottato, anzi 100 anni è qualcosa che è di antiquario e contemporaneamente attuale, quindi straordinario. Ma potrebbe anche essere 1346, quindi anche là contemporaneo sostanzialmente a quando è stato realizzato, qualche anno dopo di quando è stato realizzato. Questi sono indizi sufficienti per collocare la fonte manoscritta in luoghi e tempi di notevole fermento economico, quali appunto l'area del Piemonte, Piemonte occidentale, Asti, e le città commerciali delle Fiandre, tra la metà del 300 e del 400. Ci teniamo su uno specchio sul raggio di 100 anni. Grazie ai risultati già offerti dalla ricerca, si persi in particolare agli studi condotti dal compianto Renato Bordone, conosciamo le attività di piemontesi, in modo speciale i banchi degli astigiani, ben radicate nei grandi empori commerciali dell'Europa nord-occidentale già dal XIII secolo, quando venivano conosciuti genericamente con il nome di Lombardi. Ecco, non esistevano i mercanti o i banchieri piemontesi o di Milano o quant'altro o di Asti. In generale, area settentrionale dell'Italia, venivano generalmente chiamati come Lombardi. Nei testi lo troviamo, nella documentazione risultano così, Lombards. Consolidata storiografia attesta una massiccia frequentazione di Lombardi, e tra i Lombardi questa volta annoveriamo anche i Toscani, tra Anversa e la città di Bruges, due vivaci realtà commerciali arricchitesi grazie ai proficui scambi internazionali con l'area mediterranea. In queste città si assiste ancora al fortunato sviluppo delle pratiche bancarie, campo in cui gli italici appaiono detentori privilegiati, se non quasi esclusivi. Banchieri carissimi alla corte avignonese, siamo nel 300, quindi la corte del Papa si sposta da Roma ad Avignone, siamo lì lì per avere lo scisma. E, ovviamente questi banchieri vengono tacciati di usura gravissima e spesso odiati e malvisti da pensatori cristiani, come ad esempio Benvenuto da Imola, il quale dichiara con disprezzo come proprio gli astigiani siano fra tutti, citiamo, i più ricchi fra tutti gli italici perché sono i maggiori usurai. La dura asserzione di Benvenuto da Imola è stata evocata di recente in un lavoro sulla cosiddetta cittadinanza imperfetta dei Lombardi, assimilati per via delle pratiche di prestito a usura e ai cittadini imperfetti per antonomasia. Chi erano questi cittadini imperfetti per antonomasia? Gli ebrei. La proposta, infatti, ruota attorno all'ipotesi secondo la quale questi banchieri piemontesi incontrarono notevoli ostacoli nel tentativo di integrarsi pienamente presso la società fiamminghe, quindi le città delle Fiandre, proprio a causa delle loro attività di lucro. furono spesso odiati e malvisti dalla popolazione, dai funzionari cittadini nelle grandi realtà urbane delle Fiandre. Tesi, a mio modesto avviso, ben costruita con rigoroso metodo scientifico, però appare, come dire, incompleta. Perché questo è un discorso che ho potuto analizzare meglio in occasione appunto dell'atelier dottorale che ha citato prima la dottoressa Ferro negli studi dottorali di Arezzo nel 2015. E il ringraziamento a questo punto lo ascolterà, perché siamo in etere praticamente, a quanto pare andremo su internet, buon per noi, al collega e studioso Federico Cannelloni, che ha rafforzato ulteriormente l'opportunità di ripensare questa teoria e di perfezionarla, perché sembra incompatibile, almeno così sembra, l'isolamento di molti prestatori italiani, cioè di molti banchieri italiani, come sarebbe stato imposto dalle ostili comunità in Fiandra, con la frequentazione costante e le redditizie attività e la residenza degli astigiani in quelle fiorenti città mercantili, documentate per più di 200 anni, almeno 100 sicuramente, perché dal 3 al 400 è attestata la loro frequenza lì. Si pensa per esempio alla famiglia degli Asinari, presenti tra i banchi di Anversa almeno fino al 1450. Questo perché non possiamo ignorare che la globalizzazione, in questo caso la intendiamo come circoscritta all'Europa medievale, ma già allora si poteva parlare di globalizzazione, non sia un fenomeno esclusivamente dei nostri tempi. Il Medioevo, a partire dalla metà del 200, è il periodo di vivacissima mobilità internazionale. E a questo proposito è ancor più vero che quelli medievali siano tempi di profonda contraddizione. In questo ci aiuta lo studioso che si è occupato appunto di mentalità medievale, Huizinga, che riesce a mettere appunto in luce nei suoi studi questa contraddizione. E Huizinga è autore, fra gli altri, di un saggio intitolato, è poco noto questo saggio effettivamente, ed è intitolato Homo Ludens, l'uomo giocoso, letteralmente, dove Huizinga sostiene che l'uomo medievale, ma l'uomo in generale, non è soltanto Homo sapiens, Homo economicus, o, per dirla con i medievali, animal symbolicum et rationalis, ma è anche Homo ludens, cioè che si emoziona, che ama ridere e quindi si fa trascinare dalle pulsioni e dalle emozioni. Huizinga riprende questo concetto chiave dell'Homo ludens nella sua opera più conosciuta, che è L'autunno del Medioevo, dove chiarisce che noi, cioè gli uomini moderni, contemporanei, non abbiamo alcuna idea della sfrenata stravaganza e infiammabilità dell'animo degli uomini del Medioevo. Noi percepiamo il Medioevo come un periodo plumbeo, oseremmo dire, schematico, irrigidito da dottrina, mentre, insiste sempre Huizinga, è un periodo di stravaganza immaginifica, mettiamola così, di animi capaci di infiammarsi, letteralmente, quando vengono pungolati nelle giuste corde. E infatti noi oggi non ci potremmo spiegare il fenomeno, per esempio, delle crociate, che fu travolgente in Europa. Ce ne furono ufficiali, ce ne furono 7-8, e tanti parteciparono. Oggi nessuno, se il Papa dovesse bandire una crociata, tranne forse i chierici e non tutti, nessuno si armerebbe e partirebbe per andare a liberare, per esempio, i luoghi santi, Gerusalemme. Non lo faremmo più. Ma l'uomo medievale vive queste sensazioni, quindi è facile che venga anche trasportato da amore e odio, amo e odio in questo caso, verso della gente che praticava l'usura, è vero, ma era anche gente che serviva la società, perché senza prestiti le famiglie evidentemente non potevano andare avanti, e senza prestiti, anche con ricavo di usura, i commerci probabilmente si sarebbero bloccati durante tante crisi internazionali che nel Medioevo erano frequentissime. Quindi è inevitabile e documentato come piccoli imprenditori, investitori, artigiani, per ottenere denaro indispensabile alle attività economiche, si affidassero comunque sia all'usura dei giudei o di quei cristiani che avevano fiutato la fortuna derivante dalle attività di credito, quindi gli astigiani. Inoltre, e questo è un mercante autore di un trattato di mercatura, Pegolotti, sottolinea come Bruges fu in tutta la Fiandra, citiamo Pegolotti, quella terra ove più stanno i residenti mercatanti a fare la mercanzia e i cambi. Grande piazza internazionale, la Wall Street del Medioevo, se vogliamo. Senza contare che questi banchieri usurai riuscirono a guadagnare appunto la fiducia dei governanti delle Fiandre, dei potenti signori locali, tanto da essere chiamati ad assumere incarichi di notevole responsabilità amministrativa ai vertici delle cancellerie statali, perché erano bravi a fare di conto e soprattutto a bilanciare le entrate e le uscite. I mercanti astigiani, qui abbiamo una mappa, figurano infatti tra i maggiori attori nel mercato del denaro, tanto che gli studiosi li annoverano tra i più potenti merchant bankers a cavallo tra XIII e XIV secolo, operanti tanto in Inghilterra quanto nelle piazze dell'Europa continentale. Quindi non soltanto denaro, gioielli, spezie, preziosi tessuti in seno, pannilana. La ricerca sul commercio può e deve tener conto anche della circolazione della cultura effettuata dagli operatori economici. Come le opere d'arte, alla stessa stregua delle opere d'arte, i libri rappresentano davvero merce d'élite nel mondo medievale, per via appunto della loro rarità. Poi, anche in virtù della ristretta nicchia di mercato, riservata sicuramente ai cosiddetti pensatori di mestiere, agli intellettuali, ai principi mecenati delle arti letterarie, ai chierici ovviamente, e ancora agli stessi ricchi mercanti, amanti tanto dei numeri e dei soldi che appunto delle lettere colte. Un esempio ce l'abbiamo da un esponente della potente famiglia Roero, sempre di Asti, il quale nel testamento steso a Bruges lascia ai suoi eredi dei codices, dei manoscritti miniati con le storie amorose, per esempio, di Tristano e Isotta. Però cosa fare di tutti questi indizi che ci vengono offerti dal manoscritto? Questo manoscritto dà l'occasione per trarre alcuni spunti di ricerca che meritano l'attenzione degli studiosi. Il primo è, ad esempio, quali e quanti erano nel 300 gli scriptoria di maggiore produzione dei manoscritti che hanno raggiunto l'Italia. Questo ancora è tutto da vedere, perché appunto non abbiamo la provenienza dei manoscritti. Quanto costava in termini di denaro un codex come il nostro Manipulus? E l'altra domanda, quali rotte commerciali seguivano i libri prodotti, ad esempio a Bruges come il nostro, destinati a riempire le biblioteche dell'Italia settentrionale dalla metà del XIV secolo? Vi anticipo subito che sui primi due ancora le informazioni a livello europeo sono troppo scarse per avanzare delle ipotesi fondate, quindi queste non ve le infliggo oggi. Ma è possibile tuttavia proporre una riflessione più ampia sul secondo punto di domanda, cioè sul percorso dei libri che da Bruges provengono alla città del Piemonte. Cioè, che strada ha fatto questo libro per arrivare poi alla fine qui ad Asti? Una prima possibilità sembrerebbe subito rappresentata dal vicino porto di Genova, che da lunga data vantava contatti commerciali con la città di Asti. Asti, infatti, fortunata perché si trova esattamente a metà strada tra Torino e Genova, e quindi all'epoca i mercanti, attraverso il porto di Genova, anche quello ricchissimo di mercanti, di banche e di merci, riuscirono proprio da Genova spesso a inserirsi nel grande commercio internazionale. Anche se a differenza però dei Lombardi, i genovesi riuscirono ad aprire il primo fondo Acqua Bruges soltanto nel 1399, le galee della Superba, come quelle della rivale Serenissima Repubblica di Venezia, frequentarono regolarmente le piazze fiamminghe lungo tutto il Trecento. La documentazione proposta mostra in effetti diversi nomi di personaggi originari provenienti da Asti, anche quando non sempre viene indicata nelle fonti il luogo di frequentazione degli operatori astigiani. Per il suo viaggio a Bruges, ad esempio, il nostro frate Michele, che è l'ultimo possessore del Manipulus, l'ultimo possessore documentato, avrebbe potuto raggiungere un molo a Genova, ad esempio, e mettersi in mare su una delle navi commerciali dirette verso il mare del nord. Ma è forse opportuno considerare una seconda via, cioè il consolidato itinerario terrestre, questo, che dalla Francia, o attraverso le Alpi, quindi valicate le Alpi, incrociava importanti città della Francia come Lione, Troyes, Arras, e giungere poi alla fine via terra fino a Bruges. Stando alle ricostruzioni di un altro grande studioso, Federico Melis, in gran parte rese possibili dallo studio della documentazione dell'archivio Datini di Prato, questo tornerà più avanti nella seconda parte, il comune di Asti si troverebbe lungo la direttrice dei servizi postali attivi nel 300 tra Bruges, Milano e Firenze, che collegava le grandi realtà commerciali affacciate sul mare del nord a quelle della penisola italica. Quindi anche nel tragitto con la Francia Asti ha una posizione strategica. Dalle Fiandre questo itinerario attraversava la principale via commerciale in territorio francese, quindi Parigi, Lione, Avignone, sede dei papi, e dal passo del Monginevro raggiungeva le terre del Piemonte, proseguendo poi per Avigliana, Torino, fin qui ad Asti, fino ad Alessandria, crocevia principale per Genova, Milano, Pisa o Firenze. Anche l'anonimo autore del Codex Astensis annota come un facoltoso mercator di Asti avrebbe coperto la strada da Bruges ad Asti in 20 giorni di viaggio, via terra, per prendere parte a un'urgentissima seduta ufficiale del comune piemontese. A differenza del mare, quella attraverso la Francia sembra in effetti il tragitto più veloce, non soltanto per i servizi di posta, ma anche per le merci di importazione dalla Fiandra. Così, le carte del prezioso codice degli Statuta Revarum Civitatis di Asti raccolgono e disciplinano i dazi ratificati dal comune piemontese a partire dal 1377. Innanzitutto tessuti annotati come stoffe grandi e piccole, provenienti da laboratori tessili di Bruxelles, di Lovanio, di Gand e di Zelanda. Poi alla manifattura fiamminga lungo la via francese si aggiungevano ancora le stoffe realizzate nei centri tessili della Francia del Nord, come Rouen, Saint-Denis, Valois, nelle botteghe artigiane operanti lungo l'itinerario e giù fino a Tolosa, Carcassonne e Limoux. Oltre che da Langres e da Chambéry, la lana grezza arrivava finalmente ad Asti, sempre via terra, proveniva anche dalla Germania. Tra gli elenchi degli statuti astigiani figurano articoli pregiatissimi, come ad esempio verghe in oro, che vengono colate a Parigi, e mancano però riferimenti a prodotti librari. Questi mancano sempre, non ce li abbiamo. Non di meno vengono disciplinati i dazi sui sopporti scrittori, quindi le pergamene, che possono essere di capra o di agnello, e anche la carta, che comincia a fare capolino. Tutte queste merci provenienti dalla Fiandra e dalle regioni francesi convergevano ad Avignone per poi valicare il Monginevro in direzione dell'Italia. Le attività dei banchieri astigiani presso la corte papale avignoniese fungeva in questo senso da catalizzatore per i contatti commerciali con l'Europa settentrionale. Quindi gli astigiani fiutavano che effettivamente ad Avignone, sede papale e crocevia commerciale, lì effettivamente ruotava la vera ricchezza, vicino a casa. Non erano poche in effetti le famiglie astigiane residenti a Bruges che attraverso i prestiti, appunto, riuscivano a inserirsi con profitto nel circuito delle vivaci, reti con la terra d'origine. Si ricordano le attività di mercatores quali Gabriele da Montemagno, Oldo Garetti, Guglielmo e Corrado Roero, Antonia Belloneo, insomma cognomi che ritornano qui anche nell'astigiano, tutti operanti nel campo delle finanze e del grande commercio, contemporanei per esempio al Banco dei Grandi Caorsini aperto sempre a Bruges negli anni 40 del 300. Sappiamo ad esempio come il potente banchiere astigiano Giovanni da Mirabello, attivo nella prima metà del 300 tra il Brabante e le Fiandre, vantasse enormi crediti presso i principi e baroni, nonché presso le strutture ecclesiastiche importantissime, come ad esempio le celebre abbazie benedettine di Saint-Trond, Saint-Bavon e Gand. Tanto potente il Mirabello che il duca brabantino, appunto, lo investì di importanti cariche di Stato come quella di plenipotenziario. Quindi il signore c'era questo Mirabello, immediatamente sotto nella scala di comando, nella scala gerarchica. Una condizione di notevole peso per Giovanni, che certamente favorì l'arrivo tra gli altri connazionali, fra i quali immaginiamo anche dei preti, dei chierici. Ed è possibile che il viaggio di questo frate Michele da Orvieto a Bruges, se lo datiamo 1446 e 1449, fosse stato proprio incoraggiato dalla presenza di altri italici, come appunto il frate minore romano, dal quale il domenicano Michele avrebbe ricevuto la copia del Manipulus. Vi salto qualche parte perché mi rendo conto è troppo tecnica, è più da studi, hanno bisogno di mappe e documentazione a portata di mano che qui non abbiamo. Parliamo del trasferimento di banchieri che si spostano, le famiglie si spostano. Tra questi trasferimenti finiamo per affollare l'itinerario francese per le piazze nordiche come Anversa, che è una città snodo importantissima dell'Europa continentale per le merci inglesi, e in particolare i panni lana, cioè i panni realizzati con la lana, sia grezza che raffinata. È meta rinomata della mercatura internazionale e quindi frequentatissima anche dai prestatori lombardi. Dove c'è commercio ci sono banchieri, questo va di pari passo. Tra i primi astigiani attivi ad Anversa si distinsero per esempio gli Asinari e successivamente i De Ferraris. Quindi, dopo un florido e fortunato periodo lungo almeno due secoli, tra il XVI e il XVII secolo, venne inesorabilmente il crollo di Asti a livello internazionale. Niente dura per sempre. Già dalla fine del 400 furono i banchieri di Chieri ad affacciarsi su quel mercato europeo prima detenuto saldamente dai mercanti astigiani, quindi c'è una sostituzione. Asti va in crisi, i mercanti e i banchieri astigiani vanno in crisi, quelli di Chieri occupano i posti che erano prima detenuti o i banchi che erano prima detenuti da questi astigiani. Pur affrontando qui in brevissimo spazio temporale all'interno del XIII secolo, occorre segnalare come la circolazione di testi librari tra le Fiandre ed Asti proseguì sorprendentemente lungo il periodo almeno fino al 1500. Come è possibile accertare, qui ne abbiamo una prova, grazie alle notazioni conservate in uno dei cinque volumi di una Bibbia stampata tra il 1508 e il 1520. Una parte è stata scritta a Basilea, una parte è stata scritta a Lione, è giunta ad Asti ancora una volta via Bruges. E in questo ringrazio Deborah Ferro perché è lei che mi aveva segnalato questa coincidenza. Te la ricordi quando abbiamo parlato di questa cosa? Ed eccolo qua, la notazione viene da Bruges sostanzialmente nel 500 come nel 1345-46. Quindi concludiamo questa prima parte. Si rivela una buonissima occasione, non soltanto quella di arricchire gli studi sul tema attraverso uno spoglio degli atti notarili ancora inediti, però bisognerebbe andare a cercarli, a spulciarli uno per uno, relativi alle attività degli astigiani in Fiandra, e non si esclude la possibilità, all'interno di questo spoglio, di ritrovare registri contabili almeno delle grandi famiglie di Asti, ma anche dall'incrocio con i nuovi dati resi disponibili dagli studiosi del commercio internazionale, esperti nella ricerca archivistica relativa alla città di Bruges. Ed è opportuno non trascurare come attraverso questi itinerari commerciali, insieme alla lana e al denaro, circolasse anche la cultura scritta. Un attimo così rifiato pure io. Allora, abbiamo parlato di mercanti, di astigiani, banchieri, abbiamo visto come siano stati tacciati di usura dall'intelligenza ecclesiastica, come siano stati anche perseguitati in alcune occasioni dalle stesse popolazioni cui facevano credito. E quindi questa seconda parte, un attimino più discorsiva, è dedicata a, appunto, non tanto l'usura quanto, perché parliamo di capitalismo, le banche nascono oggettivamente nel Medioevo, quindi le transazioni bancarie hanno l'origine nel periodo medievale e poi arriviamo alle nostre banche moderne, quindi al capitalismo moderno, all'accumulo della ricchezza. Questa l'ho intitolata Capitalismo guelfo o antitesi all'etica protestante. Vediamo la tesi dominante. Max Weber, che è il fondatore della sociologia moderna, pubblica nel 1905, in tedesco ovviamente, L'etica protestante e la nascita del capitalismo, e sostiene che questo capitalismo moderno sia nato dall'etica protestante luterana, quindi frugalità, parsimonia, meritocrazia e ricchezza non come aspetto negativo, ma come benevolenza divina, come il benestare di Dio. Tesi opposta a questa, che presentiamo qui, è quella di un capitalismo diverso, la cui origine, perché quello fondativo della modernità, secondo noi, ha un'origine ben diversa ed è radicata in Italia. È radicata in Italia non nel periodo di Lutero, ma nel periodo cattolico. Quindi nell'affermazione massima, nella massima espressione della Chiesa, 200 e 300. Vediamo le origini. Ecco la tesi. San Benedetto nel VI secolo scrive la sua regola, che dovrebbe disciplinare l'ordine all'interno dei benedettini nei conventi. Papa Gregorio Magno, successivamente, anche lui un benedettino, codifica quest'etica nei famosi sette vizi capitali, così catalogati: superbia, gola, invidia, accidia, ira, lussuria e ultimo avarizia. Quest'etica gregoriana segna e scandisce tutto il percorso medievale europeo e italiano. Perché? Specialmente in quelle realtà dove a capo dello Stato vi è la città, il comune, e dove nascono i comuni nell'Italia settentrionale, dalla Toscana in su. I comuni nascono dall'aggregazione di nobili che non solo vivono nei castelli ma si spostano anche all'interno dei palazzi e nelle torri delle città, e dagli uomini di mestiere che fondano si consociano nelle cosiddette arti. Arti non perché sono artisti, ma perché usano le artes, cioè usano le mani nel loro lavoro, e non sono contadini, sono fabbri, sono scultori, sono tessitori, tintori, produttori di tessuti, cioè tutte quelle attività che esistono nelle grandi città e fanno grandi fortune, cominciano ad accumulare ricchezza. Nascono contemporaneamente le prime fraternite di carità, anonime. Questi, diciamo, personaggi che fanno parte delle arti, dei mestieri, non solo a un certo punto, e lì la rivalità tra Guelfi e Ghibellini, arrivano a governare i comuni, si pensi a Firenze. Ma già da prima, e le prime fraternite della misericordia in Europa nascono proprio in Toscana, comunque poi si estendono nel nord dell'Italia, dedicano parte del loro tempo, in forma anonima perché sono sempre incappucciati, verso le persone bisognose, i poveri. E qua ne abbiamo un esempio: avevo fame e sono stato sfamato, avevo sete e sono stato dissetato, ero nudo, sono stato vestito. Quindi opere di carità nei confronti della popolazione. Sono i ricchi che lo fanno. Quindi è un sistema che potremmo definire democapitalistico, già in origine, ed è spiccatamente medievale, dove tutto ruota attorno alla moneta, alla ricchezza. Sempre Firenze, 1252, nasce il fiorino d'oro. Carlo Magno coniava la moneta, il denarius, in argento. Il nord dell'Europa non aveva oro. Firenze è talmente ricca, grazie ai mercanti e alle banche, che può permettersi di accumulare tanto di quell'oro e coniare una sua moneta d'oro, il fiorino. Un fiorino di Firenze corrispondeva in media 3,45 grammi, quindi un bel tondello d'oro, e Firenze con questa moneta inaugura, ve l'ho scritto, l'economia moderna fondata sull'oro. Oggi come funziona? La ricchezza pro capite delle nazioni è quantificata in oro. La carta moneta stampata si basa sulla riserva aurea che uno Stato possiede. Affianca alla moneta d'oro, perché i fiorentini non sono sciocchi, affiancano una moneta leggermente più debole, il fiorino d'argento. Quello serve a regolare la svalutazione, che è anche un termine moderno. Quindi dalla metà del XIII secolo, quando viene coniato il fiorino d'oro, un fiorino equivale a 20 fiorini d'argento, arriviamo all'inizio del 1500, quindi questa moneta dura 300 anni, un fiorino d'oro, per comprare un fiorino d'oro ci vogliono 1500 fiorini d'argento. Quindi immaginate la svalutazione come progressivamente è cresciuta. E volete che non abbia contaminato tutta l'Europa, visto che tutta l'Europa commerciava col fiorino di Firenze? Tant'è che ancora oggi noi abbiamo degli stati che hanno come moneta nazionale il fiorino. Pensiamo al fiorino ungherese prima dell'euro, per esempio. Quindi tutto ruota attorno al fiorino. E vabbè, facciamo una disamina iconografica. C'è una simpatica ipocrisia tra ricchezza e povertà, perché se da una parte c'è il giglio di Firenze, quindi l'ostentazione del simbolo comunale fiorentino, dall'altra parte gli incisori decidono di mettere il San Giovanni Battista, vestito come un povero di pelli. Però è anche vero che San Giovanni era il patrono di Firenze, di conseguenza il patrono della città quantomeno. Il fiorino d'oro, dicevamo, diventa moneta di scambio internazionale. Ed è talmente delicato questa moneta, è talmente preziosa, che a un certo punto sempre i fiorentini decidono di tesaurizzarla, cioè di conservarla in cassaforte e far circolare al posto della moneta la carta, la cosiddetta lettera di cambio. Quelli che noi oggi volgarmente chiameremo assegni, inventati in Italia. Quindi, sinteticamente, che cos'è la lettera di cambio o lettera di credito? Lettera di cambio è l'antenata della moderna cambiale ed è un documento con cui un banchiere, che aveva ricevuto per esempio un versamento da un cliente, normalmente era un mercante, ordinava a un altro banchiere operante su un'altra piazza, da Asti a Bruges, il paragone è calzante, di pagare quella somma a un determinato beneficiario, pagabile al portatore. Il vantaggio, così come le lettere di credito, consentono di evitare i rischi e le spese di trasporto di moneta. Ci sono i ladri, c'è la guerra, trasporto per nave, ci sono le tempeste. Immaginate perdere un carico di monete d'oro, cosa volesse significare? Una banca falliva, un'attività commerciale poteva chiudere. Lettera di credito, che è il documento che permetteva ai mercanti di ritirare presso un diverso istituto bancario il denaro precedentemente versato a un altro istituto, in genere situato a grande distanza. Altro esempio che va benissimo, sempre Asti con Bruce, quindi Italia, Fiandre. A questo punto la città del Fiorino, Firenze, diventa il punto di riferimento europeo e il linguaggio del commercio delle banche è quello italico. Bank, anglosassone, è l'italiano banco. Lettera di cambio, si diceva lettera di cambio. Mercante nasce come termine italiano. Questo, e questa è una teoria che andrebbe onestamente sviluppata, spero non ci siano docenti di italiano perché qui un attimino potrebbero storcere il naso, perché la diffusione dell'italiano, del toscano, sì è vero che lo dobbiamo noi per esempio a un Petrarca, lo dobbiamo a Dante, ma ragioniamo un attimino. Quante copie esistono, per esempio, della Divina Commedia, ancora conservate integre nelle biblioteche o nei musei? Se ce ne saranno un centinaio in tutta Europa, siamo fortunati. Deborah, poi mi fai sapere. Facciamo una ricerca mirata. Di contro, quanti, non manoscritti semplici, quanti archivi come questo che abbiamo noi qua, contenenti lettere di cambio, contenenti contratti notarili, scambi di merci, esistono non in Italia, in Europa? Ancora gli studiosi non li hanno catalogati tutti. Gli archivi sì, i faldoni all'interno ancora continuano a uscire in conti. Per faldoni intendiamo questi, che sono le raccolte anno per anno, oppure per attività o per merci che venivano trattate, una sorta appunto di, come lo chiameremmo, non so, dimmi tu, un faldone, come li chiamiamo? Dei faldoni, appunto, ancora li andiamo a catalogare per quanti ce ne sono. Quindi è indiscutibilmente vero che, ovvero simile, che la diffusione dell'italiano inteso come italiano antico toscano lo si debba più ai mercanti toscani, lombardi in generale, così ci sentiamo tutti più contenti, che non agli uomini delle alte lettere, delle alte littere. Questo è indiscutibile. Anzi, forse al contrario, la fortuna di Dante, di Petrarca, è proprio dovuta al fatto che l'Europa parla, insieme al latino, come linguaggio internazionale, parla e conosce l'italico, l'italiano. Però i problemi ci sono, perché la Chiesa è sempre là che vigila. Sempre nel 1300 un altro toscano è Francesco Datini, uno dei costruttori di quell'archivio che vi ho fatto vedere prima, che abbiamo visto, l'archivio Datini a Prato. Il suo motto, medioevo, 1300, era «In nome di Dio e del denaro». E già la dice lunga sul personaggio. Era figlio di un oste, quindi di umili origini. Nel 1348 va a Firenze, impara il mestiere di banchiere, il mestiere del cambio, si reca ad Avignone, perché sa che è una piazza molto ricca, presso la corte dei papi, e là inizia la sua fortuna, perché acquista tanto di quel capitale attraverso il credito che nel 1380 rientra in Toscana, nella sua città natale a Prato, e inventa la prima azienda composita. Lui sta tranquillamente seduto nel suo ufficio, nella sua stanza, nel suo laboratorio di carte, e da lì riceve tutte le informazioni dai suoi agenti, mercanti e banchieri sparsi in Italia e in Europa. Un po' come faranno poi i medici a Firenze. Quindi la prima grande azienda, potremmo dire la prima grande holding, non è anglosassone, non è tedesca, non è luterana, ma anche questa è italiana. Le opere d'arte. Perché a un certo punto si smette di affrescare le pareti delle abitazioni private e ci si orienta più verso i quadri? Perché sono facilmente trasportabili. Io sono un mercante, io sono un banchiere, oggi sono ad Asti, domani sarò a Genova, per 20 anni, per 10 anni mi dovrò trasferire a Bruges, mi dovrò trasferire ad Anversa. Mi porto con me le mie ricchezze, che ho investito, ad esempio, per abbellire la mia dimora, la mia casa. Un po' come si fa oggi. Le quotazioni delle opere d'arte. Stessa identica cosa, rappresentano un oggetto di decorazione, ma rappresentano anche un oggetto di scambio. Io posso scambiare un'opera che piace a qualche appassionato o a qualcuno in cambio di moneta. Posso tesaurizzare l'opera d'arte e la posso scambiare. E qua siamo alle immagini del Palio di Asti, perché non ne ho trovate di migliori, quindi prendo queste qui. A un certo punto, l'Italia soprattutto, tale e tanta è la ricchezza che si sviluppa, che a partire dal 1343 le autorità, su pressione ovviamente della Chiesa, perché la Chiesa fa il suo lavoro, quello è il suo mestiere, prudenza, ricordatevi, l'avarizia sempre non va, deve emanare le prime leggi suntuarie. Cosa sono le leggi suntuarie? Sono delle leggi cittadine, leggi civiche, che regolano espressamente, scusate, sono andato troppo avanti, che regolano espressamente quanto lusso una persona può ostentare nella strada. A casa sua puoi fare, nelle feste puoi fare tutto quello che vuoi, ma quando sei in pubblico devi vestirti in un certo modo, non puoi ostentare troppa ricchezza. Quindi quanto deve essere prezioso il vestito che indossi, quanto oro puoi o quanti gioielli puoi indossare in pubblico. Per un medievale queste sono veramente delle patoste. Lì c'era veramente la polizia di, diciamo così, del podestà, in questo caso, che girava per le strade per verificare quanta ricchezza stessero ostentando i cittadini. Vigilava sulla ricchezza, un po' come oggi, mi verrebbe da pensare, la Guardia di Finanza vigila sull'evasione. Siamo là. Quindi anche le leggi si adeguano alla ricchezza, anche le leggi si adeguano all'accumulo di capitale, pro capite. E ovviamente permane il dibattito in ambito morale. È giusto, ancora nel 300, è giusto o non è giusto accumulare ricchezze? Ci rifacciamo un attimino a Sant'Agostino, che è ovviamente contro l'accumulo delle ricchezze, il quale nella Summa Theologiae scrive: il bene dell'uomo consiste nel goderne con giusta misura, secondo quanto è indispensabile alla vita. Eccedere da questa misura costituisce peccato. I 7 vizi capitali, l'avarizia. I bisogni non necessari, e Sant'Agostino per bisogni non necessari intende il lusso, sono desideri peccaminosi che allontanano da Dio. Dall'altra parte, invece, noi abbiamo umanisti, in un umanesimo potremmo definire, io ho scritto, protocapitalista razionale ed economico, che invece legittimano proprio l'etica di tutti i bisogni, compreso il bisogno di spendere per il lusso, per stare bene, per ostentare. Questo già è un periodo, come dicevo, Huizinga, di contraddizione, quello medievale. Anche la Chiesa si adegua. Nelle Sacre Scritture, qualcuno mi smentisca, perché mi sarà sfuggito evidentemente, non si è mai parlato di purgatorio. O all'inferno, se fai il birichino, oppure te ne vai in paradiso se segui la legge di Cristo. Come diceva Jacques Le Goff, il purgatorio non solo è un'invenzione del Medioevo, ma è un adattamento della Chiesa verso quei personaggi che per mestiere, per vivere, praticano peccati di avarizia, di accumulo di denaro, di prestito a usura, cioè per i mercanti e per i banchieri. La Chiesa ricorda sempre con l'avarizia non accumulate troppo denaro, perché, questa è emblematica, il peso stesso del denaro accumulato in eccesso vi trascinerà all'inferno. Quindi sempre la Chiesa, nella sua ambivalenza, tollera ma mette in guardia. E a un certo punto anche la Chiesa, succede qualcosa all'interno dell'ambito ecclesiastico, perché se il capostipite fiorentino della famiglia dei Medici iniziano come mercanti, diventano banchieri e a un certo punto un Medici diventa signore di Firenze, quindi la famiglia da mercante diventa a signore, apre la signoria a Firenze, un Medici mercante, Giovanni de' Medici, nel 1513 sale al trono, al seggio pontificio, al trono di Pietro, col nome di Leone X. . 1425, non è un caso che viene commissionato a Masaccio il cosiddetto pagamento del tributo. Il denaro comunque sia sempre serve, e il Cristo ha detto a Pietro di dare l'obolo quando spetta, quindi la circolazione del denaro va bene, può essere tollerata, non siate troppo rigidi, dicono i laici al mondo della Chiesa. 1440-1445, qua l'immagine è un po', fidatevi, se vi fidate mi fate un regalo. Un artista, Francesco Pesellino, nella predella della Pala del Noviziato, è dedicata ai santi Cosma e Damiano, quindi sempre commissionata dai Medici, qui Cosma e Damiano c'è il famoso miracolo dell'avaro, cioè il cuore non si trova nel petto dell'avaro, ma, guardate qua l'immagine, in realtà si trova nella cassaforte insieme ai fiorini. Quindi anche l'arte prende a ispirazione dal denaro e dall'accumulo della ricchezza. Poi qua ci sono le varie interpretazioni: è un bene che sia là, almeno è al sicuro in cassaforte, oppure l'avaro ha perso il cuore perché si è dedicato troppo all'usura e quindi al denaro, che è considerato sempre lo sterco del diavolo, e qua possiamo dibattere. Veniamo invece a un umanista laico. Siamo fuori con i tempi, siamo nei tempi. Abbiamo finito, stiamo finendo, giuro. Del resto potrei tenere sermoni meno lunghi, ma una volta che inizio sono troppo pigro per fermarmi, scusatemi. Veniamo a un certo Poggio Bracciolini. Anche lui vive nel periodo di grande floridezza e scrive un testo, scrive il De Avarizia, ma non contro l'avarizia. Scrive un saggio a favore e a difesa dell'avarizia. Questa è la cosa interessante. E strategicamente mette insieme e fa un paragone, prendendo i due vizi capitali per eccellenza, la lussuria e l'avarizia, e si chiede: cos'è peggio? Vediamo cosa pensa. Cosicché, se si ricorresse al giudizio del popolo, non dubiterei che quasi tutti esprimerebbero un giudizio diverso dal nostro, dal momento che, a carico della lussuria, sono state definite secondo la sua autorità e le sue leggi molte sentenze. A carico invece dell'avarizia, nessuna. Cioè non c'è nessuna legge pubblica, nessun tribunale civile che abbia condannato l'avarizia e l'accumulo della ricchezza. Mentre contro la lussuria qualche verdetto negativo c'è stato, anche più di uno. Ma tuttavia, tanto per non discutere secondo il punto di vista del popolo volgare, ma secondo ragione, a buon diritto mi sembra di poter affermare che la lussuria appare crimine molto più turpe di quanto lo sia l'avarizia. Deve essere giudicato infatti come vizio più grave e più vergognoso quello dal quale il nostro animo e il nostro corpo risultano più danneggiati e corrotti. Ed è fuor di dubbio che la lussuria estenua il corpo e getta lo scompiglio nell'animo più che l'avarizia. Ne consegue dunque che bisogna giudicare la lussuria come il vizio peggiore. Ci sarebbero altre sue arringhe, mettiamole così, in difesa dell'avarizia, però visti i tempi questa volta li saltiamo. E arriviamo a Lorenzo de' Medici, al Magnifico, signore di Firenze. La famiglia sono mercanti e banchieri, comprano signoria e dove non comprano i voti per la signoria comprano sicari e comprano eserciti per garantirsi il potere, tutto attraverso il denaro. Quanto è bella giovinezza, ovviamente, che si fugge tuttavia. L'etica, da Bracciolini e poi con Lorenzo de' Medici, l'etica del denaro ormai è completamente ribaltata, ormai è completamente cambiata. Nel 1500 l'Europa si spacca in due, quella italiana e mediterranea rimarrà ancorata al lusso e alla ricchezza. Quella luterana, invece, sì, sarà sulla frugalità, forse, come dice Weber, anche lì ci sarà un suo capitalismo, ma per Martin Lutero e per l'etica protestante l'accumulo di ricchezza intesa come usura e lusso vengono sempre e comunque visti come lo sterco del diavolo. Quindi a voi a questo punto le conclusioni su quale delle due teorie possa essere, o delle due tesi proposte, possa essere quella fondativa del capitalismo moderno. Una domanda per voi, perché sono stanco di parlare. Cosa sono queste? Le tre? Grazie per l'attenzione.